storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera a voi tutti da parte di Gesi e di Antonio. Ecco caro Antonio, eccoci qua anche stasera e stasera abbiamo una cosa un po' diversa, non abbiamo mai fatta qui da noi, qui nella mia trasmissione, nella nostra trasmissione. Stasera avremo un direttore di un coro che poi presenteremo. Intanto ti do la parola. Allora, di nuovo benvenuto e buonasera alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Abbiamo anche la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. E naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Eh sì, al nostro Eddie Daici, tanti tanti saluti. Benissimo. Allora, presentiamo subito il nostro ospite, che è appunto il direttore del coro Voci del Montello, ed è il signor Artemio Tosello. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a voi, grazie. E benvenuto nella nostra trasmissione. Quindi stasera parleremo di un coro misto, un coro soprani, contralti, tenori, bassi. A me piacciono anche i cori maschili, però se devo essere sincera preferisco i cori misti. Lei cosa ne dice, signor Tosello? Diciamo che è una variante di quella che è l'abitudine dei cori popolari, che ultimamente sta dando delle possibilità sonore, acustiche e espressive che ha il suo lato positivo. Eravamo abituati a sentire solitamente i cori maschili di tradizione, ovviamente, e questa versione dei canti popolari nel appunto per quattro voci miste ha tutt'altro ambito acustico. No. Quindi, sì, certo. Però diciamo che a me i cori maschili non è che dispiacciono, anzi ci sono dei cori stupendi e anche delle belle voci maschili, che sono dei bassi, mamma mia, in certi cori che sono stupendi. Bene, qui abbiamo un direttore del coro abbastanza giovane, diciamo, no? Qui è nato il 22 del 2, non diciamo l'anno, è nato a Sala di Strana. E lui incomincia a mettere le sue basi con la sua pratica musicale nel coro parrocchiale del paese dove è nato e nel coro del Duomo di Treviso sotto la direzione appunto di Don Giovanni Zanatta nel periodo scolastico delle medie presso il seminario vescovile di Treviso come soprano. Quindi lei ha incominciato molto presto. Sì. E questa è forse stata proprio la mia fortuna, nel senso che quando si comincia da giovani la voce risponde in un modo quasi spontaneo, naturale, e si ha una possibilità di espressione che col tempo cresce. Diversamente si comincia un po' più avanti nell'età e le cose diventano un po' più difficilini, ecco, diciamo così. Perché per essere soprano vuol dire che aveva quanto, 11-12 anni? Il periodo delle medie dagli 11 ai 13-14 anni, sì. Chissà che bella vocina che aveva. Molto acuta. Sì. Inizia gli studi musicali all'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Treviso nel periodo di Don Giovanni Zanatta. Ormai non ci sarebbe, non l'ho mai sentito nominare. E Don Giovanni Zanatta purtroppo è morto e deceduto da diversi anni ed è stato una persona abbastanza eclettica nel suo ambiente del clero, perché musicista, direttore di coro, ha fatto elaborazioni, ha ricostruito l'archivio della diocesi di Treviso musicale, archivio musicale che è presso appunto l'Istituto Diocesano di Musica Sacra. E quindi è una persona che si è data molto da fare proprio nell'ambito della musica. Ho capito. Quindi lei studiò pianoforte con la maestra Rita Fuso, poi riprende dopo il periodo del servizio militare privatamente presso l'Istituto Malipiero di Asolo prima e poi quello di Montebelluna e in seguito conseguendo il diploma di tromba al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia nel 1987. Quindi lei è diplomato in tromba? Sì. Ah, ho capito. E pianoforte cosa ha fatto? L'esame complementare? Ho fatto un esame complementare, sì. Ho capito, quindi, beh, ma insomma, penso che lo conosca abbastanza bene, insomma, perché per quanto sia l'esame complementare richiede abbastanza... Penso che corrisponda un pochino al quinto anno del... qualcosa in meno, al quinto anno del... del percorso che si fa per il diploma in pianoforte. Qualcosa in meno, diciamo. Sì, qualcosa in meno, sì, ma... Frequenta nel 1988 il seminario di interpretazione con Nicola Conci a Treviso e il corso di didattica della musica a Grosseto con Feltri. Del Frati, sì. E quindi lei ha studiato anche a Grosseto? Ho fatto un seminario, un corso estivo a Grosseto, tenuto appunto dal maestro da Del Frati, che era un insegnante che faceva, che scriveva libri per le scuole medie. Ah, ho capito. E quindi era appunto un seminario per darmi quelle basi che mi sarebbero servite una volta che avessi avuto l'abilitazione all'insegnamento delle scuole medie, perché era quello in quel periodo il mio intento. Sì, perché una volta, beh, io parlo per quello che, per gli studi musicali che ho fatto io so che una volta si poteva insegnare anche col quinto anno. E ancora l'esame sì. di quinta non credo, adesso non si può più, no, bisogna avere lauree, bisogna avere qualcosa di più e ecco. Avrei potuto farlo, ma siccome non, l'insegnamento non è il mio forte, non mi piace, e quindi ho preferito fare un altro lavoro. Allora sì, appunto studiò con la signora Erika Baichi, sì, presso l'Istituto Malipiero di Montebelluna e poi privatamente con il tenore Alemanno e con il compianto soprano Cecilia Guiotto, perché è morta? Sì, in un incidente stradale, era un soprano che cantava all'Arena di Verona. Ah. E è morta giovanissima, non ricordo l'età, però era molto ma molto giovane. Oh, mamma mia. Una promessa del canto lirico che abbiamo perso. Guiotto, sai che non mi ricordo? Da Caerano San Marco. Da Caerano San Marco. Nel 1990 ottenne il diploma in didattica della musica presso il Conservatorio Stefani di Castelfranco. Eh sì, ormai è diventato un conservatorio molto importante anche il Conservatorio di Castelfranco. Certo, certo. Una volta era il Benedetto Marcello che era all'avanguardia, ma adesso penso che quello di Castelfranco non gli sia tanto meno. Sicuramente. Dopo 2 anni consegue privatamente il diploma del terzo anno di didattica. Sì, perché va specificato. Sì. Quando ho iniziato il corso di didattica era un biennio. Ah. Dopo che ho superato l'esame del biennio hanno introdotto il triennio e quindi ho preferito ripresentarmi come privatista per avere il triennio di didattica della musica. Ho capito. Allora... supera nel 1991 il concorso abilitante all'insegnamento della musica nella scuola media, ma rimane nell'ambito dei cori con diverse esperienze. Dal 1981 al 2003 ha diretto i cori parrocchiali di Volpago del Montello, Caonada e Buia di Valdobbiadene e attualmente dirige il coro da lui fondato a settembre del 2003, Voci del Montello, di Volpago del Montello. Ecco, questo coro mi pare che sia legato a un'associazione. Sì, quando abbiamo iniziato abbiamo fondato da subito sì. un'associazione di promozione sociale proprio per poter anche legalmente rientrare in quelle che sono le direttive della gestione delle associazioni, dei cori. Ho capito. Beh, ci fermiamo un momentino e cominciamo a far ascoltare ai nostri ascoltatori un saggio del suo repertorio. Con cosa cominciamo? Iniziamo con Cesetta de Transacqua. Sì, vuole spiegare un po' così il sì, questo brano. Canto è dedicato alla chiesetta di Transacqua che è situata in Trentino in una frazione di Fiera di Primiero ed è sotto le pale di San Martino. È dedicata anche al Monte Cimone perché molto spesso le nubi nascondono la sua vista. La chiesetta di montagna è segno di una presenza che riempie tutto di significato e a cui tutto rimanda. I capelli ricci e gli occhi chiari della donna amata, la bellezza misteriosa della montagna che si nasconde dietro le nubi, il vento che fischia sul cimone. È lo stupore grato di ogni creatura, un segno di amore e di fede verso il Creatore, una consapevolezza che rende la vita lieta in ogni situazione e che fa cantare. Cosa importa se ho le scarpe rotte? Io ti guardo e mi sento il cuor contento. La rivista alpina del 1972 del comune di Transacqua, che il Mario Carron da San Zenone degli Ezzelini è riuscito a recuperare contattando direttamente il comune di Transacqua, riporta la storia di un certo Quirino Gloria che al ritorno dal suo matrimonio con Stella in codesta chiesetta, il giovedì dei primi di settembre del 1946, incantato dalla meraviglia del paesaggio e degli avvenimenti della giornata e della sua stella, prese la chitarra e compose questa melodia affidandone anche le parole che ora sentiamo. Nella armonizzazione del maestro compositore storico friulano Mario Macchi sentiremo appunto ora il canto popolare trentino composto da Quirino Gloria Stella. Volevo dire una cosa prima che cominci l'esecuzione del brano, che il suo coro è composto da 19 persone, no? Sì. Cioè soprani, contralti, bassi e tenori. Cos'ha? 9 uomini e 10 donne, vero? Esatto, sì. Quindi ha 5 soprani, 5 contralti, 5 contralti, 4 tenori e 5 bassi. E 5 bassi. Benissimo, allora ascoltiamo questo brano. Eccoci di nuovo in studio. Cos'è questo? Un coro, sì, un brano amatoriale, diceva lei prima. No, diciamo che il coro è un coro amatoriale con persone che hanno una vita comune, un lavoro e poi alla sera ci ritroviamo una volta alla settimana per imparare questi brani, per cercare di dare il meglio che si può dare, che ovviamente essendo a livello amatoriale non può avere delle ambizioni di qualità eccelse, ha i suoi limiti, senza nulla togliere comunque all'impegno dei coristi che va comunque rispettato. Comunque ho visto che avete fatto un sacco di concerti, anche dal 2004 a oggi avete fatto tantissime cose, quindi avete una un'attività molto prolifica. sulla media, diciamo. Beh, sì, comunque, come sono le persone? Dalle voci così mi sembrano abbastanza giovani. Anche qui sono abbastanza diversificate, nel senso che abbiamo soprattutto sulle voci femminili delle giovani, e arriviamo dai 20 ai 45-50 anni. Sulle voci maschili invece il discorso è un po' diverso, perché partiamo dai 35-40 e arriviamo ai 65-70. Ho capito. È difficile trovare persone che amino così la musica corale, che vengano volentieri al coro. Lei ha colpito nel segno. Questo è un problema spinoso. C'è una defezione totale da parte dei giovani, soprattutto dei maschi, nei riguardi del coro, del canto corale, nei riguardi della musica di una volta, fra virgolette, perché oggi purtroppo preferiscono la musica attuale, che magari fra 50 anni, 100 anni diventerà la musica popolare. Quale? Quella di oggi? Quella di oggi. No. Io quella di oggi penso che... Quella musica leggera di oggi o la musica corale? La musica leggera di oggi probabilmente diventerà la musica popolare fra 100 anni. Non credo. Ma la storia si ripete, su questo è vero, perché noi ora in chiesa cantiamo un repertorio che è sì in parte attuale, ma ripesca continuamente... Appunto dal passato. Dal passato. Sì, però vede, quella, la musica del passato... Cioè, non è che lo faccia, ma insomma io sono un amante della musica del passato e penso che la musica di oggi sarà molto difficile che verrà ripescata nel futuro, perché è una musica che secondo me io la chiamo rumore, ma non importa. questa è un'idea mia, perché lei vede anche nella musica leggera per le canzoni, vede che oggi le cantano queste canzoni, dopo domani non le cantano più. Mi scusi se la interrompo, però credo che sicuramente ci sarà una contaminazione, nel senso che la musica che viene eseguita oggi, bene o male, in qualche modo va a interferire in quello che è il nostro concetto di musica, sia a livello di ascolto che di composizione. I compositori di oggi, sia per la musica sacra che per la musica popolare, corale, anche per altri tipi di composizioni, bene o male vanno a pescare in questi stilemi, utilizzano questi modi di far musica, collegandoli però, e questo è anche un lato positivo, a quelli che sono gli schemi di una volta. Di una volta, sì. Per cui abbiamo anche delle esecuzioni che sono piacevoli, anche seppur con delle caratteristiche completamente diverse. Sì, sì, ma io dicevo che se la musica di una volta aveva delle armonie, che difficilmente queste la musica di oggi ha. La musica di oggi, secondo me, è piuttosto piatta, diciamo, non è che abbia un... Sì, poi per carità, in tutte le epoche c'è il bene, il meglio, però secondo me la musica di ieri resterà anche nel futuro. La musica di oggi ho i miei dubbi. Forse dovremmo un po' distinguere, nel senso che quella di consumo, sì, è destinata ad essere fruire di un consumo e avrà la sua fine quella che sarà. Invece la musica di una volta, bene o male, resterà nel nostro patrimonio culturale e di questo probabilmente nel tempo rimarrà comunque una traccia. E comunque chi vivrà sentirà. Allora diciamo che negli anni 2007 e anche nel 2010 il nostro direttore qui frequenta il corso Alonigo di Vicenza sul metodo funzionale Rohmer. Dal 2005 al 2008 ha diretto anche il coro di Asolo a Rocca de Asol. Che era questo qui un coro a voci maschili, no? Sì. Con i quali ha inciso il CD I Canti de una Volta. Beh, questi mi sa che sono bellissimi, vero? Che è un documento storico sul repertorio dei canti popolari strapaesani. Poi ancora frequenta i corsi di direzione organizzati a MEL dall'ASAC nel 2008, del 2009 e del 2011. Per un breve periodo, nel 2010-2011, ha fatto parte del gruppo vocale Sintagma di Feltre. Sì. Collabora con il coro Vox Laudis di Povegliano. Cos'è un coro in latino? è un coro che esegue polifonia sacra. Sì, sempre che, in latino. Ma il nome è in latino. In realtà il coro esegue musiche in latino, repertorio sacro liturgico latino, italiano e anche, con, anche in altre lingue. Ah, ho capito. E questo coro è diretto da Pietro Bazan. Recentemente ha frequentato i seminari organizzati a Mel dalla corale Zumellese con i maestri Caraba e Busto. Sì, bene. Arrivo fresco fresco appunto dal corso che si è tenuto, dal seminario che si è tenuto ieri a Mel. E anche questi sono passaggi fondamentali per un direttore, perché la formazione del direttore è un elemento indispensabile. Beh, io penso di sì, perché bisogna saper dirigere, bisogna sapere tante cose, insomma, che sono necessarie. Allora, ci fermiamo ancora un momento e vediamo il secondo brano che adesso lei ci esporrà. Il secondo brano è La Marianna. Questo canto ha tutte le caratteristiche per essere definito un canto popolare, perché innanzitutto non c'è un autore conosciuto della melodia. Narra fatti e virtù e necessità di vita quotidiana della nostra gente, che potrebbero però essere traslati anche nel nostro tempo. Racconta della vita familiare con i problemi del quotidiano, di dover procurare la sussistenza con il lavoro nei campi, faticoso con orari non certo odierni. Ci dice della gioventù con tutti i suoi aspetti più vivaci e spensierati, con le sue necessità di divertimento e il desiderio dei genitori di veder maritata la propria figlia. Ed è proprio la grande fede dei nostri genitori che chiede a Dio: «O Dio del cielo, che fai fiorire le rose, fammi trovare marito a queste tose». Nell'elaborazione di Marco Sofianopulo, anche lui un triestino come Claudio e Mario Macchi, sentiremo ora La Marianna. Benissimo, ci ascoltiamo La Marianna dal coro Voci del Montello. Tramonterà, tramonterà. continuiamo con la descrizione. Qui abbiamo in previsione anche il volume L'attività corale del secolo scorso nel comune di Montebelluna. Posso fare un commento? Certo, per cortesia? Certo, certo. Ecco maestro, io le devo dire che questo finale di questo brano è stato molto bello, questo crescendo in ultimo, proprio nella fase finale. Solitamente infatti i brani concludono in morindo e poi in crescendo sottovoce, sì, finale sì, leggera. Si vede la cultura musicale della conduttrice. E invece qui è proprio il brano stesso che la richiede il contrario. Bene, dicevamo del volume L'attività corale del secolo scorso nel comune di Montebelluna, che narra la storia dei cori nel comune citato dal 1900 al 2000, con racconti dalla viva voce dei coristi, dei direttori, degli organisti, dei familiari che hanno vissuto in prima persona questa attività corale, corredata da foto e documenti storici. Ed ora un breve profilo del coro Voci del Montello, che inizia la sua attività nel settembre del 2003 con la costituzione dell'Associazione Culturale. Il canto popolare è l'espressione più sincera della cultura e delle tradizioni delle nostre genti e diventa il filo conduttore che unisce culture diverse senza prevaricare su di esse. I tempi, le abitudini e il modo di vivere è cambiato. Anche il canto popolare ha subito delle modifiche nelle modalità di esecuzione e nei luoghi. Questo è stato anche uno dei motivi che ha determinato la nascita del coro, che ha lo scopo di recuperare e tramandare i canti popolari della tradizione orale veneta, nello specifico quelli della zona del Montello, quelli che si cantavano per esempio quando si andava nei campi a lavorare o ci si trovava per qualche festa paesana, magari con un buon bicchiere di vino in mano. Posso intervenire un momento per cortesia? Certo. Ecco, in quale modo sono cambiati questi? Difatti ho sentito adesso appunto la Marianna, che è molto diversa da come io la conoscevo questo brano, insomma. Cos'è che tende a cambiare nell'esecuzione di questi cori, nell'armonizzazione di questi cori? Allora bisogna fare un po' un passo indietro. Il canto popolare nasceva da delle esigenze ben precise e specifiche. Camillo De Biasi, attuale responsabile della consulta dell'ASAC di Treviso e studioso di musica, che ha scritto i canti popolari veneti, si è accurato la stampa dei canti popolari veneti di Luigi Marson, descrive molto bene quelle che sono le caratteristiche dei canti popolari e la loro funzione. Intanto il vero canto popolare è a una, due voci. Solitamente c'era una voce femminile e una voce maschile. In più aveva delle elaborazioni estemporanee, non documentate, non documentabili, non registrate, che nascevano dalla spontaneità degli esecutori. Non c'era di per sé un vero direttore, anche se in una foto di Marson c'è un gruppo che io ho anche utilizzato in una locandina, in cui si vede che c'è comunque uno che dirige, gestisce un po' il gruppo. Quindi il canto popolare di oggi si diversifica completamente dal canto popolare di una volta, perché più elaborato, mantiene la melodia, ma poi il resto è tutto modificato. Sì, sì, perché prima era più spontaneo, veniva proprio, si cantava così come veniva, ecco, in sostanza. Riferendomi a quello che ha letto adesso Antonio, il vostro coro è nato come mai? Con quali motivazioni, con quali finalità? È nato nel 2003 perché ha cessato di esistere un altro coro, un coro parrocchiale, per alcune vicissitudini che sono successe. Un gruppetto di ex coristi parrocchiali si è ritrovato e da lì è nata l'idea di iniziare una nuova esperienza con questo repertorio completamente diverso, il canto popolare. Prima cantavamo in chiesa e abbiamo fatto un taglio netto. Per far questo abbiamo costituito questa associazione di promozione sociale, registrata fra l'altro anche nei registri regionali, e abbiamo iniziato a cantare e a ritrovarci una volta alla settimana. Quindi lei, quando una persona si presenta e che richiede di entrare nel coro, come procede? Cioè prima ascolta la voce, deve fare dei vocalizzi per sentire l'estensione della voce? Nel senso che prima ci ascolta la persona e capisce se quello che cantiamo può piacergli o meno. Una volta che rimane, che continua e ci frequenta, allora prima di procedere viene fatta una piccola verifica per capire un attimino innanzitutto l'ambito vocale, se è una donna, se è un contralto soprano, se è un uomo, se è un tenore, un basso, se può essere utile o meno al coro e se può anche vocalmente essere utile o meno. Quindi sì, è necessario un attimo di verifica, non è detto che proprio tutti possono cantare in un coro. Sì, perché se una persona, per quanto sia o cala o cresce o è leggermente stonata, può succedere che tiri giù anche gli altri, vero? Ultimamente abbiamo corretto questo termine. Uno non è stonato, uno è non intonato. In un coro, uno può intonarsi, ecco. Lei pensa che una magari che non è tanto intonato riesce, magari con un po' di studio, a intonarsi? E con un po' di applicazione di buona volontà può arrivare a intonarsi, sì, questo sì. Questo dipende se uno ha orecchio o meno, perché se uno ha un po' di orecchio riesce a seguire anche gli altri. Se uno è privo di un orecchio musicale, chiaramente fa fatica. Ma qui mi aggancio a quel discorso che lei aveva fatto all'inizio, in cui osservava che io avevo iniziato a cantare da giovanissimo. Sì. E lì costruiamo il nostro orecchio musicale. Infatti, se nella scuola, all'asilo, nelle scuole elementari, nelle scuole medie ci fosse un'educazione al canto, sicuramente non avremmo i problemi che abbiamo oggi. Questa forse è una lacuna del Ministero della Pubblica Istruzione, della nostra struttura scolastica. Di fatto è una constatazione che io posso confermare, c'è questo problema reale. I giovani non cantano più come si cantava una volta. Ma io lo dico sempre che la gente non canta più e quindi sì, questa è una brutta cosa. Anche se io ritengo che il coro che sia un momento di aggregazione molto molto utile e anche diciamo che può anche dare alle persone un momento di oltre che di aggregazione anche di gioia, perché insomma se uno si accosta al coro così con piacere, penso che ne abbia un grande beneficio. Va bene, adesso ci fermiamo e proseguiamo con il terzo brano. Il terzo brano è Nina Nana, letteralmente come lo diciamo in dialetto veneto. Benché sia considerato un canto popolare molto semplice, con melodie non elaborate, la Nina Nanna rappresenta la testimonianza di costumanze e di rituali di un determinato ambiente storico-sociale. Lady la definisce addirittura uno strumento primario ed essenziale di inculturazione, soprattutto nel contesto sociale rurale, perché, come accade per tutti i testi di canti popolari, anche la Ninna Nanna riflette la cultura di cui è parte e mette in evidenza elementi di mitologia, di storie, leggende, ma anche una quantità di problemi di natura psicologica relativi sia all'individuo che alla collettività intera. È legata alla precisa funzione di far addormentare il bambino. La Ninna Nanna è fortemente radicata al contesto sociale della società contadina e della famiglia patriarcale, dove è gestita quasi per intero dalle donne di varie età. La Ninna Nanna non è cantata soltanto dalle mamme, ma da tutte le donne di casa, nonne, sorelle, maggiori, zie, che possono sostituirle in questo compito, per le quali spesso rappresenta il mezzo per esprimere i propri sentimenti e i propri problemi, per sfogare le proprie frustrazioni nell'unica occasione in cui si trova finalmente sola. Nessuno la può sentire, infatti, mentre addormenta il suo piccolo con ninne nanne dolcissime, ma dei contenuti che esprimono rabbia per la dura vita e per la sottomissione. Con il testo di un altro triestino, Raimondo Cornet, e la musica di Claudio Macchi, ora ascoltiamo appunto Ninna Nanna. Ninna Nanna, e dopo aver ascoltato questo brano avremo un momento di pausa, perché ho inserito nel programma un'altra piccola chicca. Ci ascoltiamo il brano. Dormi ben, bella questa Nina Nanna. Adesso vi ho detto che c'era una chicca. Inseriamo un piccolo programmino così che sarà intitolato Le ricette di Nonna Pina. Nonna Pina trevigiana, non una Nonna Pina nazionale, no, questa è una Nonna Pina autentica che adesso noi salutiamo. Buonasera Pina. Buonasera Jessy, buonasera a tutti, anche agli ascoltatori, ma penso che qualcuno già mi conosce. Sì? Sì. Io così ho creduto opportuno di intitolare questo piccolo programmino Le ricette di Nonna Pina, proprio perché tu ti chiami Pina e sei nonna, no? Sì, è un bel impegno perché ricette mie, proprio mie, non è che ne ho tante, comunque qualcuna ce l'ho. Vabbè dai, intanto con che cosa cominci stasera? Ma intanto stasera volevo cominciare con un piccolo segreto dell'alimentazione tratto dal Madre di novembre di quest'anno è scritto da Rita Brunetti, perché vengono fuori certe novità che ti scombussolano. Ascoltate, voglio leggere, non voglio parlare. Anche l'alimentazione ha le sue leggende metropolitane. Da qualche decennio si continua a dire che la frutta non vada mangiata dopo il pasto per evitare la fermentazione nello stomaco. Difatti è vero. Bisogna vedere se è proprio vero. Comunque, è vero. Qualcuno dice meglio fare qualche spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio, si sente ripetere. Ma quello che tramandavano le nostre nonne era invece diverso e in molti casi confermato poi dalla scienza. Per esempio, quello di mangiare gli agrumi o spremerne il succo quando si mangia la carne o alimenti che contengono il ferro. La vitamina C in essi contenuta, infatti, facilita l'assorbimento del ferro, quindi è positivo. Da evitare invece, anche se per qualcuno sta diventando di moda, bere il tè durante i pasti. Ma io non so che cosa ci trovi. Questa bevanda infatti ha l'effetto opposto. Ma insomma. E catturare il ferro diventa difficile per l'organismo. Lasciamo il tè alle 5, vero? Infatti. Senza bisogno di consultare i medici, le nostre nonne sapevano che l'albicocca ha proprietà antianemiche, che l'anguria è diuretica, che la ciliegia è lassativa, mentre il limone è l'antibatterico naturale per eccellenza. C'era la mia nonna che il limone lo usava per disinfettare, per mangiare, per nutrirsi, perfino per purificarsi gli occhi. E anche per pulire la pelle. Sì. Passando invece alle verdure, se siete appassionate di insalate, sappiate che il giusto mix di fibre deve seguire questa logica. Radice, fusto, foglia e frutto. Per un'ottima insalata, perciò, meglio scegliere ad esempio la carota, che è una radice, il sedano, che è il fusto, l'insalata, che è la foglia, e il pomodoro, che è il frutto. E il gioco è fatto. Simpatico, quelle sì, belle insalatone sì, mescolate sì. E hanno un senso in quanto hanno un po'... Io non ho simpatia per l'insalatone, però. Un semplice trucco, poi, per quanto riguarda le verdure cotte. Poiché mentre le cuocete le verdure disperdono i loro preziosi minerali nell'acqua di cottura, non sprechiamola quest'acqua. Cerchiamo di riutilizzarla in salse, minestre o per i risotti. Addirittura io consiglio di bere anche l'acqua della cicoria perché è meraviglioso per l'intestino. Fa bene per l'intestino, sì. Vero? In generale tutte le verdure, sia cotte che crude, sono l'ideale per chi è a dieta, perché garantiscono un rapido senso di sazietà senza apportare troppe calorie, a patto però di non eccedere con i condimenti come olio e sale. Questo era proprio un flash che mi è piaciuto proporvi, vero. Perché tante cose si sanno e non si sanno, oppure si dimenticano. Senti Pina, adesso in questo periodo tutti fanno il risotto con la zucca. Tu? Io lo faccio, anche se lo faccio di rado. Comunque ho una ricettina abbastanza facile da poter proporre. Allora vediamo se i nostri ascoltatori possono prendere carta e penna. Si deve comprare una mezza zucca o una intera, a seconda di quanto grande è la famiglia. Io ho la famiglia piccola, perciò prendo una mezza zucca. E ci si prepara un soffrittino di cipolla. Io dentro nel soffrittino di cipolla ci metto sempre una spruzzatina di erbe aromatiche perché ci sta molto bene. Ci metti anche lo zenzero? No, lo zenzero. Io mi compro quelle erbe aromatiche già pronte, quei sacchettini, quelle bustine. Si trovano anche nei supermercati. Sì, sì. C'è un mix di prezzemolo, rosmarino, salvia. Sono le erbe aromatiche che fanno tanto bene e che danno un tocco diverso al cibo. Poi taglio a pezzetti la mia bella zucca, la faccio soffriggere insieme con la cipolla, col piccolo soffrittino, e lascio lì un pochino. Poi metto dentro il riso, un po' di olio d'oliva. Io faccio il soffritto sempre con un po' d'olio d'oliva extravergine. Non burro? No, io preferisco l'olio extravergine d'oliva. È più leggero ed è una medicina quasi. Poi ci si mette dentro a pezzetti la zucca, la si fa leggermente rosolare e poi pian piano, prima di mettere l'acqua, ci metto il riso. Una tazzina da caffè per ogni persona. Mescolo, mescolo, mescolo e lascio riposare per circa mezz'oretta. Poi quando è ora che tutti arrivano, riaccendo il fuoco, metto l'acqua dentro, aggiungo l'acqua che serve con un po' di dado e mescolo. Poi chiudo, non serve a mescolare continuamente come qualcuno fa. Il riso s'arrangia, si cuoce lo stesso. Ma si attacca poi? No, non si attacca, no. E anche perché io non metto l'acqua un po' alla volta e sto sempre lì a mescolare. Ah, ho capito. Io metto l'acqua, quella che serve, perché io intanto faccio altre cose, no? Sì, sì. Ecco, poi quando è cotto ci aggiungo un po' di formaggio, anche tagliato a pezzettini, quello morbido che vendono nei nostri bei mercatini. Che così si scioglie e fa una bella spruzzata di prezzemolo. E volendo anche un po' di burro, capito, mantecato bene. In ultimo. E il risotto della zucca è buono, sano e nutriente. Bene Pina, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo la prossima domenica per un'altra ricetta, magari, non so, vedi tu una ricettina di stagione, risotto con i funghi, vabbè, vedi tu insomma. Comunque noi ti ringraziamo e adesso ci ascoltiamo un altro brano intanto, perché poi lo spiegheremo dopo. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. E va da me che non avete sentito, ci siamo ascoltati quel mazzolin di fiori che penso che molti di voi conosceranno. Adesso il nostro maestro ci parlerà un pochino del brano. Sì, anche questo brano, elaborato da Mario Macchi, si rifà al canto popolare della Lombardia di lontanissima origine, nato sui paesi delle montagne, dove con il venir meno della radio, del cinema e di altre diavolerie, delle condizioni necessarie alla loro spontanea sopravvivenza, sarebbero probabilmente nati i canti alpini che hanno conquistato un loro pubblico sempre crescente, che in essi ritrova i sentimenti di giorni sereni o esaltanti, che per mezzo di essi impara a conoscere la misteriosa suggestione della montagna. La canzone racconta la storia di una donna abbandonata, che è tipico dell'arco alpino. Questo canto, fra l'altro, lo ritroviamo, ed è conosciutissimo anche forse proprio per questo, nel repertorio della SAT, il famoso coro maschile che ha avuto un successo e un eco internazionale, che ha appunto favorito il recupero dei canti orali della tradizione popolare. Però è più bello sentito cantare da un coro misto. È un altro effetto, sì. Effetto acustico, essendo in una zona acustica più alta, sì. L'effetto probabilmente prende di più l'orecchio. Sa più da canto popolare proprio, probabilmente quando cantavano, sì. Uomini e donne, esatto, una volta, sì. Sì. Così nel la versione maschile della SAD è proprio tipica dell'alpino, diciamo, sì. Più, sì. Ecco. Bene, Antonio, tu hai qualche domanda da fare, maestro? No, più che una domanda è una constatazione di quanto questi cori popolari, eccetera, diano serenità, almeno a me fanno questo effetto. Cioè mi ricordano tempi in cui la civiltà contadina era ancora praticamente in auge e non era stata distrutta dalla modernità esasperata, eccetera. A me sembra che proprio mi danno francamente emozione e come dire, mi fanno pensare proprio a un'epoca che sembra lontana, ma io ritengo che invece sia in procinto di ritornare. Non so quale sia la sua opinione. Me lo auguro da un lato, Antonio, perché viva l'ottimismo, perché in effetti ne abbiamo bisogno di questo ottimismo e di questo recupero e forse di tornare anche un po' alle nostre origini, certo. Magari anche lasciando perdere un po' di tecnologie. Sì, invece adesso ce ne sono tante tecnologie, sì. Che progetti avete per il futuro? Perché vedo che ne avete fatti tanti concerti in passato di tutti i tipi, insomma, ma mi pare che andate molto nelle case di riposo. Allora, come associazione di promozione sociale ci siamo appunto assunti, perché è anche una caratteristica dell'associazionismo di promozione sociale, di fare anche del volontariato. Il nostro volontariato che possiamo fare appunto è quello di cantare, non certo di fare assistenza. Però noi possiamo alleviare quello che è la solitudine e il disagio delle persone di una certa età e di una certa condizione, andando appunto a cantare e dando loro quella possibilità, quella oretta, quei due orette, di ritornare alle loro origini, alla loro storia, alla loro cultura, che in effetti stanno perdendo, ecco. Magari le signore e i signori della casa di riposo cantano assieme a voi. Sicuramente è successo spesso e utilizziamo anche ad hoc dei brani che so che gli ospiti cantano e li lascio anche ben volentieri aggiungersi. Famosissima è La strada del bosco, che io utilizzo in tutte le case di riposo perché quelle persone la conoscono, non certo i miei figli, no, non la conoscono più. Mi sarebbe tanto piaciuto sentirla, ma chissà, penso che prima o poi ci sarà un altro momento, così ci ascolteremo, perché ho visto che ne avete tanti in programma qua. Sì, certo, sì. Avete La strada del bosco, sì, ma come, vabbè, sono proprio curiosa di sentire com'è La strada del bosco cantata in coro. Comunque, vabbè, adesso ci ascoltiamo anche un altro brano, perché cos'è che c'è adesso in programma? Adesso in programma abbiamo un brano di Beppi De Marzi. Ah, bene, che mi piace tanto. Cortesani. Beppi De Marzi non lo possiamo dimenticare. No. È stato soprannominato il poeta del nostro tempo e la sua musica e le sue parole hanno varcato i confini del mondo. E come non ricordare il brano Signora delle Cime, che ormai è stato cantato in tutte le lingue del mondo. anche troppo cantato, perché poi sì, quando una cosa viene troppo sfruttata perde. Ma forse proprio il brano stesso che incita alla cantarlo, ricantarlo e continuare a cantarlo, perché probabilmente al suo interno ha qualcosa che prende e che non stanca mai. Come vede, Beppe De Marsi non a caso è stato nominato il poeta del nostro tempo, perché diventa arduo commentare un suo brano. Chiara infatti è la annotazione riportata dallo stesso Beppe al brano: Cortesani è la contrada del silenzio. Qui si canta l'abbandono e il ritorno come un sogno. Ma queste due righe sinteticamente riassumono proprio ciò che Beppe De Marsi ha voluto far capire ascoltando questo brano, che ci suggerisce di eseguire lento e pianissimo come un eco lontano, quasi in silenzio, in un cantare impercettibile. La conclusione stessa ci fa intuire ciò che non ci fa cantare: il silenzio, l'ascoltare, abbandonarsi e sognare. Con il testo e la musica di Beppe De Marsi sentiremo ora Cortesani. Benissimo, ci ascoltiamo Cortesani di Beppe De Marsi. Maestro, molto, molto belli questi cori qua. Beh, diciamo che a me piacciono molto tutti i brani di Beppe De Marsi, anche la Contrada della Quaciara, la Bresolada, Noel. Lei deve aggiungere qualcosa? Antonio, tu devi fare qualche domanda? No, io lascio il maestro la conclusione. Benissimo. Sì, allora io innanzitutto ringrazio Blu Radio per l'ospitalità, ringrazio voi per avermi consentito di partecipare a questa trasmissione radiofonica. Ringrazio i coristi perché mi hanno consentito di creare Coro Voci del Montello. Ringrazio il maestro Claudio Macchi perché mi ha dato l'opportunità di poter iniziare un'attività corale. Ringrazio anche il Mario Caron perché è il nostro speaker ufficiale, che si documenta ogni volta che dobbiamo andare a cantare fuori nel presentare i brani, persona oculata, intelligente, che merita tutto il rispetto e le considerazioni, e vorrei fare un appello tramite questo microfono. Il coro Voci del Montello vive e potrà vivere se vengono a cantare delle persone giovani. Abbiamo capito che i giovani oggi stanno un po' disertando il mondo della coralità. Quindi vorrei sollecitare chi ha piacere di cantare, di venirci ad ascoltare, di partecipare all'attività del coro nella zona del Montello. Voi ci trovate sia con un blog vocidelmontello.blogspot.com, ci trovate tramite l'associazione ASAC, oppure ci trovate anche contattandoci tramite la radio, alla quale lascerò i recapiti. Benissimo, benissimo. E più gente viene, meglio è, anche perché sì, è un motivo, come dicevo prima, di grande aggregazione. Beh, io adesso avrei tante domande da fare, per dire la verità, perché mi piacerebbe così che mi parlasse un po' di Claudio Macchi, ma ormai il tempo stringe, per cui non... Sì, non sarà per la prossima volta, eventualmente, se lei avrà così ancora la cortesia di essere nostro ospite. Ok, grazie. Intanto la ringraziamo. Grazie, le diamo anche appuntamento, da parte mia. Le diamo appuntamento, ma è una prossima volta che può essere anche non tanto lontana. Grazie, saluti. Allora, Antonio. Buonanotte, alla prossima. Ecco il nostro regista, Eddie Daici. Anch'io auguro a tutti una serena notte col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.